il mio tesoro. Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli. Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli. Tesoro. Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli. Tesoro. Un anello per domani.